Vai Valentina, ma che differenza fa? Ah, metti addosso l'allegria e lo stress se ne va via. Felce azzurra, la schiuma più bella d'Italia. Ci siamo. Amore, fai presto, io non resisto. Basta, silenzio, tombale subito. Eccoci, ci siamo, siamo tornate, quasi siamo, in orario, ma siamo non troppo, tornate, siamo tornate, siamo perché tornate. Alle cure c'è un macello, non si sa che succede qui, ma questa città è diventata da Coverciano alle piagge, mamma una mia. Fila continua. E vabbè, si sa, allarme pioggia, lasciamo i motorini a casa, giustamente, e guarda che succede. Se mannaggia. Guidate le auto come guidate il motorino, stiamo aiuto, tutti freschi, stiamo... Aiuto, bisognerebbe poter andare a piedi. Ma fate come me, fate un lavoro, vi fate lo studio casereccio. A casa, vi fate lo studio a casa e li mandate tutti. Ah, vabbè. Poi non è vero perché... Quando mi tocca girare serio, tipo 8 quartieri in 4 ecco. Ore. Vabbè, bene. Vabbè. Ma allora, buonasera. Abbiamo Nenia. Saputo che, buonasera anche a te Nina, abbiamo saputo che ci darai delle fantastiche delucidazioni sì. In merito ai neologismi. Sì, ai neoneologismi. Neoneologismi, perché sì. La puntata scorsa. Della settimana scorsa era neologismi, questa è neoneologismi. Neoneo. La esatto. Prossima. Siamo proprio a livelli spaziali sui neologismi, perché la settimana scorsa è venuto Ivan, il nostro ospite laureando, ci ha parlato di neologismi e ci è avanzata, come il polpettone che si fa con l'avanzo della domenica, ci è avanzata un po' di roba dalle scalette. Ma abbiamo fatto la maionese. La maionese buona, quella rosa, abbiamo fatto la maionese. E, quindi riprendiamo un po' il discorso dei neologismi. Vedo Nenia in regia un attimo. Sì, temo di avere un problema, un lieve fruscio. Appena capisco da dove viene, io ti lascio un attimo. Ciao. Oddio, tu mi lasci da sola subito? Accidenti. Vabbè, facciamo un piccolo riepilogo intanto, insomma, tanto per iniziare così a gamba tesa, visto che sono le 19.46, abbiamo avuto questi 10 minutini di ritardo perché, oddio ho detto minutini, questi 10 minuti di ritardo perché appunto c'è un po' di casino in giro per la città, quindi anche raggiungere la radio è un po'... Forse così. Intanto io ho risolto il fruscio, detto non anche brusio. Non era un fruscio. Era un froscio. Era un froscio. Era una sessione. Però parrebbe risolta la faccenda. Ecco. Eccoci. Eccoci. Forse no. Chissà. Maledetti Vediamo. Microfoni direzionali. Eccoci, bene. Allora, si diceva appunto che ricapitoliamo un pochettino la puntata della settimana scorsa. Non siamo fluide quest'oggi però, no, siamo un po' incartate, ti vedo un po' stanchina. Io mi sono vestita con vestiti che non sono miei, giusto per dire questo. Ecco. No, un po', forse siamo meteoropatiche, sentiamo un po' l'influsso dell'atmosfera. Ma facciamo una puntata sull'astrologia, i tarocchi, queste cose la prossima volta. Guarda, mi riuscirebbe tanto bene. Polesse, si può fare. Ho una laureanda fresca che si intende di tarocchi, potremmo... Sì, richiamarla allora. Si fa l'Accademia del Tarocco per un giorno. Oh. Se ci telefonate, non so, vi daremo un numero di telefono di qualcuno, se ci telefonate vi facciamo... Pronto? La cartomante in diretta. Ma occhio, fatture e tutto quanto. E tutte cose. Tu a quella ci devi dire che la deve spettare di quartarti. Tra l'altro, visto che noi abbiamo una selezione trash particolare, io potrei veramente allietarvi. Si fa un'altra puntata sui regionalismi, per esempio. Sì, anche perché abbiamo un po' di gente in lista che vuole venire a parlare. I più grandi cartomanti sono tutti romani o campani, in genere, quelli televisivi. Sì. Per cui, ragazzi, cioè, tenetevi pronti, perché secondo me così ci è venuto proprio questo brainstorming, cioè tempesta di cervelli immediata, ci è venuto un po'. Però io ti dico una cosa, non vado avanti se non mi fai sentire qualcosa di stradivertente. Ah sì? Allora, giusto per ricollegarci... Sto battendo le dita sul tavolo. Facciamo un passo ritroso, neologismo, parola in generale. E di cosa potremmo mai parlare? Qual è la parola? La parola. È partita la sigla. Vai. Ma potremmo anche tenerla come sottofondo. Senti com'è bellina. Tanto quanti siete che ci state ascoltando? Tantissimi. Per cui il bello della diretta. Eccoci. Quando tu vorrai, non avrò paura. Se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come proprio come morto per amore, vivo in mezzo a noi, in mezzo una cosa sola con il Padre e con i tuoi. Fino a quando io lo Mariano. So, tu ritornerai eventualmente per aprirci il regno di Dio. Mariano, c'è René che ti vuole parlare. Ah sì, continua. Sempre in do minore, non alzare di una terza. No, sto basso. Vai. Forte che ti voglio sentire, forte. Sempre credo in te, non mi Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come... Meraviglia delle meraviglie. L'avrete riconosciuto tutti. Era Boris, uno stralcio dal nostro adoratissimo Corradino Guzzanti, che effettivamente, insomma, siccome si parla di neologismi di parola, direi che questa è una serie dove potreste trovare veramente un monte di mix tra parole nuove, parole che vengono dal mondo del cinema, delle serie, parole che vengono anche un po', come dire, insomma, sono un po' maccheronizzate. E poi in generale la parola del Signore è sempre al primo posto. Questa ci accompagna in secolo secolo. Nei nostri cuoricini. Sempre con noi. Cuoricini. Faccio come Mariano adesso, prendo fuori la mazza. Insomma, addentriamoci nel tema della serata, i neologismi. La settimana scorsa abbiamo parlato di cosa significa un neologismo, quali sono le tipologie di neologismi più ricorrenti nella lingua italiana e non, perché poi in realtà il neologismo si applica a un monte, oggi la parola è monte, un monte di tutte le lingue hanno un neologismo, hanno una ricorsività e hanno la capacità di essere, di avere una sorta di capacità di aggregazione di concetti e parole infinita, per cui tutte le lingue sono appunto ricorsive, quindi di conseguenza sono creative E neologismo significa parola nuova, deriva dal francese neologismo e riprende addirittura il greco, quindi neo, nuovo, e logos, parola, molto semplice. E la cosa bella dei neologismi è che sono una classe di parole, se così vogliamo dire, che si pensa siano contemporanee, in realtà appartengono alla lingua da sempre, perché come abbiamo detto la lingua si evolve, quindi ogni passo che fa in avanti porta con sé delle nuove formazioni che poi vengono come dire, uniformate a quello che è il parlato generale. Ma guarda, quante cose. E chi è il nostro migliore amico per, per parlare, insomma, per dirci se la parola che abbiamo sotto gli occhi, tipo il petaloso di Ivan della settimana scorsa, è un neologismo? Il nostro caro amico di non è Dio, dizionario Zinga. Zingaro. Bello. Ci stava anche lo Zingaro stasera. Sì, perché no? Che come ogni anno, anche nel 2016, perché il 2017 non è ancora terminato, anzi siamo manco a metà, crea uno studio nuovo di appunto neologismi, ovvero è l'unico dizionario, uno dei pochi, perché il Devoto Oli penso sia tipo fermo al 98, vabbè, il dizionario italiano è... Davvero? Sono 98, no, però loro sono più arcaici, amano di più quella che è l'etimologia, queste cose. È il mio dizionario preferito in assoluto, Zingarelli invece sono più seguono più magari gli andamenti della lingua. Infatti loro ogni anno fanno questa bella collazione di termini e registrano i cambi proprio della lingua italiana che poi si confanno e corrispondono ai mutamenti sociali. Cioè, il succo è quello proprio. Infatti, cosa vediamo in pole position? La sua classifica. Allora, ragazzi, non sono nemmeno in ordine alfabetico. Io questi neologismi li ho trovati online facendo un po' di ricerche, soprattutto guardando anche sul sito della Zanichelli. Loro te lo dicono. Allora, nel 2016 abbiamo avuto 500 nuovi inserimenti che si aggiungono alle 144.000 voci già esistenti. 2017 vedremo. Ma la prima parola, come mi chiedeva... No, dilla tu. Vediamo. Dilla tu. Non me la sento. Oggi no, proprio non me la sento. Ragazzi. Dai. È una cosa... Ma davvero, cioè almeno... No, vabbè, sono tutte bellissime. Tiki-taka nel calcio. Questa la dedichiamo a Ivan, all'ospite della nostra settimana scorsa, lui è un grande fan, un grande appassionato di calcio. E si dirà. Si dirà, ma lui lo sa cos'è. In podcast, lui lo sa. Nel calcio, tipo di gioco consistente in un insistito possesso palla basato su una serie di passaggi. La parola in realtà deriva dallo spagnolo e significa tiquete toquete, ma ha trovato ampia eco nei quotidiani nazionali. Raga, quotidiani nazionali, il Corriere dello Sport, che io non leggo. Gazzetta, queste robe. Ma dai, tutto il rosa della vita. Fino a diventare il titolo di una trasmissione televisiva italiana che si occupa appunto di calcio. Ecco, ci rifacciamo ai mutamenti sul piano sociale. Perfetto, questa dice veramente tutto. Ti rendi conto? Che roba. Stasera ve le elenchiamo, non tutte 500, ma una selezione delle più belle. Sì, dai, ci sta. Perché? Qual è la tua preferita tra quella che vedi qui? Oddio, c'è l'imbarazzo della scelta, effettivamente. La seconda, diciamo che... Però non si... Sì, dai... Ma vaffan brum brum brum. Ma vaffan brum. I nuovi madrigalisti moderni, com'era? Avete capito? I nuovi madrigalisti. Che belli. I cinque, com'era? Non mi ricordo come si chiamavano loro nel film. Ma è la super cazzola. Questo si dice spesso. Sì. Anzi, mi stupisco che sia entrata nel dizionario soltanto nel 2016. Perché in effetti... Probabilmente c'è stato il reboom del film che ha creato poi un... probabilmente si usava tantissimo anche tanti anni fa, ma magari non era così in voga in mettere nel dizionario parole che potessero venire da film o cose del genere. Esatto. E la supercazzola è una parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per confondere l'interlocutore. E ovviamente, amici miei, Mario Monicelli, 1972, 1-3, amici cineasti, so. Comunque, cineasti? Cineasti in regia? Amici miei, 71, ci fanno 4 con la mano dalla però regia. Però si muoveva questa mano, non si è visto bene. 8, 4, non che so. 8 con una mano sola. E quindi, sì, bella, bella, ci piace, approvata. Sì, sì, sì, sì, va sì. Di avanti. Va di avanti, bene, una poi dopo vi facciamo sentire un pezzo bellissimo. Sono tutti bellissimi quest'oggi. Sì, vabbè, ho fatto una selezione. Ragazzi, quest'altra è meravigliosa. No, posso dire quella dopo? Sì, dai. Che fa veramente... Sì, chiudiamo in bellezza al primo Nel primo linguaggio spezzone. Giornalistico, questo è un aggettivo appartenente al Movimento 5 Stelle. Sentite un po' che roba, pentastellato. Capito. Non hanno detto il 5 stellato, hanno addirittura trovato la radice greca. 5 stellato sarebbe stato un po' più loffio, no? Sì. Cioè, sì, sì. Però davvero, bah, pentastellato, ragazzi, sì. Ma c'era davvero bisogno di tutti questi neologismi, sono oltre che essere... Cioè, poi... voi dite sempre, ci vogliono, e poi vi dovete beccare anche questi, cioè, non è che si può scegliere tipo mani pulite, per esempio, non è mai entrato nel vocabolario. Mani pulitismo, no, perché allora, cioè, mani pulite è stata una cosa parecchio più importante del però Movimento 5 Stelle. Però l'influenza mediatica che hanno avuto loro è sicuramente più... Questo è un gomblotto, è un gomblotto. Questo è un gomblotto. Oh mamma. No, ci vuole subito un pezzo. Ci vuole subito un pezzo. Sciacquiamoci. Ci vuole subito un pezzo perché noi non vogliamo parlare di pentapolitica. Esatto, soprattutto quindi... se il penta è questo. E quindi Niki, Nico e Gabbioni. Non sono altro che parole che tu dici per convincere me, cosa fai? Non lasciarmi qui da solo, resta ancora, forse tu ci riuscirai, ma non sai che tu sei l'amore mio, sei l'amore mio. Non tormentarmi con la gelosia. Perciò ti prego, fidati di me. Il mio amore è tutto per te, ma non sai che tu sei nel mio destino, ed il mio cuore è sempre a te vicino, perciò ti prego, tutto per te. Perciò ti prego, me, e il mio amore è tutto per te. Signore e signori, un ospite internazionale, eccolo a voi, signore e signori, parli vicino al microfono, prego. Buonasera. Lui è il signor... Graneco con la K. Graneco, viene da madre Russia. Venghi. Granenko si pronuncia. Ecco. Vedi, la pronuncia è importante, ci ha già fatto il cazziatone, non è nemmeno arrivato e già ci ha fatto il cazziatone. Esatto. Senti, parlavamo di parole strambe, ce ne dici una? Beh, è una parola abbastanza stranissima che va a comprendere sia la città di Firenze che quella di Plato e Diane. Oh, Diane, qua siamo tutto veramente attaccato. È vero. Siamo sul regionalismo. È vero. Sì, Diane, sì. Che poi neanche, è anche un po' neologismo perché nella maniera in cui viene scritto ovviamente non c'è bisogno. Mettiamolo tutto attaccato. No, ma dobbiamo fare detto Diane. Non mi sono sbilanciata, tutto attaccato. Diane. Che non è il macchinino, non è la macchina. No, non è il Diane. Non è nemmeno Diana. Ci piace, grazie. Sì, vedi, in regia abbiamo sempre... Siamo sempre pronti, stiamo sempre sul pezzo. Ora vi rimando siamo Nico. Siamo sempre sul pezzo con Nico e i Gabbiani. Siamo veramente sempre sul pezzo di Nico e i Gabbiani. Sempre a te vicino, sempre a te vicino, perciò ti prego, fidati di me, e il mio amore è tutto per te. Si parlava di toscanità, di supercazzola come neologismo e chi arrivano? Chi arriva? Caiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci. Ma vaffanzum, ma vaffanzum. Chi chiava tromba, chi tromba chiava. Si si chiama. Ci scusi, Eminenza. Via, aspettate. Aspettatemi. Oh, il bambino. È la cosa più bella, il finale. Con il bambino dimenticato. Il bambino. Oh, bucaiola, tu mi tradisci. Allora, siamo arrivati a fare una listina di vari neologismi classificati dal nostro caro dizionario e abbiamo detto appunto sono tutti termini registrati nel 2016 dopo il pentastellato, il poltronismo. Questo ce l'ho, ne sono affetta. Quanti in regia hanno il poltronismo? Alzino la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. Siamo in 12. Incredibile. Aspetta, c'è anche l'ottavo, C'è l'ottavo, eccolo. Atteggiamento di chi farebbe qualsiasi cosa per conservare il suo incarico. Ah, no! Eccoci, allora avete no. Appena... giù le mani! No. Abbiamo appena assistito a un equivoco. A un'interpretazione del neologismo. Ma anche a un lapsus. Anche, sì. mi sono fatta guidare troppo dall'istinto. Esatto, poi c'è cioè, quello tanto caro a... No, e dopo quello tanto caro a... al nostro Mentana, anche lui, vediamo se nel 2017 verrà inserito nella gara Zanti col Webet. Perché abbiamo complottista, che in realtà non pensavo fosse un neologismo, perché chi ordisce complotti e chi tende a immaginare complotti dietro ogni evento. Pensavo sì, anche io fosse più vecchio, non recentissimo. L'hanno spolverata, perché effettivamente adesso il gomblot, però sarebbe gomblottista. Sarebbe quello. Poi, sempre un sostantivo derivato è la parola jihadista, sì. Sostenitore della jihad, della guerra santa. Sì, poi diciamo che un buon 60% viene dai media, fondamentalmente. Fateci caso, cioè, basta se guardare il TG La 7 una sera sì. E avete fatto il pieno. Però poi, questi erano, diciamo, appunto, i primi 6-7 neologismi che lo Zanichelli indica come, appunto, appartenenti al mondo del web, del giornalismo e dell'informazione comunque online, perché sì. Difficilmente sentiamo queste cose. Poi ci sì, sono... Io su studio, cioè, queste trasmissioni un po' più così, visto. Esatto, un pochino... Tipo, non so, quarta poltrona. Vogliono stare sul pezzo. Ma quarta un po' le robe loft. Esiste quarta? Non è una poltrona, ma sì, è quarto, quarto grado. Forse, quarto grado! Sì, grado. Sì. Accidenti, che ansia. Poi non so bene, non guardo la TV. Scriveteci a posta@insiberia.net quali trasmissioni guardate, dove potrete trovare tanti, potreste trovare tanti neologismi come questi. Maybe. E dopodiché vengono classificati invece dei termini io ne leggo che... alcuni veramente bellissimi che non sono nemmeno in grado. Sono quelli che derivano dal mondo medico-scientifico e che siccome negli ultimi anni sì. Comunque si registrano un sacco di aumenti, di disturbi della personalità, tanto è vero che ormai l'essere borderline è all'ordine del giorno, abbiamo un po' di paroline come ipomania o disposofobia. Io, cioè, è un nome bellissimo, io la vorrei avere, la disposo. Tu non ce l'hai, Nenia, io ti conosco, mi dispiace, ma non ce l'hai. Ah no, no. No, la Nenia questa non ce l'ha. Io invece ho l'ipomania. Ecco, disturbo lieve della personalità che si manifesta come eccesso di attivismo o euforia immotivata. Tutto questo da sobri, perché da sbronzi non diciamo vale. Che è normale, no, allora non quando vale. Si alza un pochino il gomito. Ma guarda, non vale. Bene. Esatto. In regia chi soffre di ipomania? E di disposofobia? Hanno alzato la mano molto. Perché le mani erano piene, allora non riuscivo ad alzarle. Sì. Perché che vuol dire? Paura ossessiva di eliminare gli oggetti, esatto. Abiti e quant'altro. È una tendenza patologica all'accumulo seriale. Il mio nuovo vicino di casa, in quel fantastico giardino, ha un sacco di roba, quindi si potrebbe dire che è un disposofobico. Disposofobico, wow. Bello. Non si dice più voglio diventare disposofobica, ora me lo tatuo nella schiena. Si fa un gruppo che si chiamano gli disposofobi. Aiuto, mi si sta intrecciando la lingua, sarà che non bevo acqua da tanto tempo. Acqua. Io ho detto che non bevo acqua, non sono mica. Si avvicina alla prova a costume, caro il mio granenco, e quindi no, io al mare non ci vado. Assolutamente. Io sì, e invece... a mangiare. Cogenitore abbiamo poi. Uno dei genitori rispetto all'altro. Ah, guarda. Ovvero, cioè in realtà il cogenitore è il, diciamo, genitore che subentra all'interno di una cosiddetta famiglia, non è disfunzionale, anzi, no. La famiglia allargata, quella che chiamano, sì, per sì. Cui... la moglie che si separa e si sposa, si sta con un altro uomo e ha un figlio, ecco che quest'uomo diventa cogenitore. Il cogenitore, mi piace, sì, onesto. Ci sta. Sì, tutto quello che era igno e astro era brutto. Mamma, fratellastro, patrigno, matrigna. Ragazza madre. Ragazza madre. Meglio madre ragazza, più carino. È una cosa bellissima da farvi sentire sulla ragazza madre, ma la devo far sentire un'altra volta. Ah, ma ho capito. E sì. Ragazzo padre. No, andatevelo a cercare, quel pezzo meraviglioso. E poi, lo dedico a Autodate, ma senza nessun, perché so che ha riso molto quando l'ha sentito, senza nessun riferimento. Perché è un padre ragazzo. È un padre ragazzo. Ma quell'ultima che vedo, Misericordina. Ah, la scatola simile a una confezione di medicina. Io non la leggo. Dai. Io no, mi spiace, non la leggo. No! La scatola simile a una confezione di medicinali in quanto rimedio per l'anima, contenente il rosario, distribuita dalla Chiesa Cattolica su iniziativa di Papa Francesco. Ma te sei un genio, fra. Cioè, Francesco, sei un genio. È il genio del marketing. No, ma che meraviglia. Il rosario di Papa Francesco. Oi, aspetta, c'ho male all'anima. Oh, misericordina. Fammi prendere il mio rimedino. Dammi la mia misericordina. A che ora è che devo prendere la misericordina oggi? No, è un po'. Doveva essere tipo verso le 9:30, 10, se non erro. Quindi ne ho persa già un po' di dosi di misericordina da stamattina. Ti toccherà fare le... Devo recuperare. Un po' di indulgenzina. Due dosi in una. E in tutto questo schema di santità, tra... Stasera siamo abbastanza santi, accidenti. Abbiamo iniziato... con un po' di cose troppo sante. Che succede? Abbiamo un problema di regia. No. Abbiamo anche il termine Santissima Madre Surrogata, donna che porta a termine una maternità surrogata. Mi ha sempre fatto venire in mente qualcosa di mangereccio questo termine. Non so, ci va venire in mente il caffè surrogato. Mi fai le lasagne surrogate. Il caffè surrogato, quello che c'era durante la guerra, che mia nonna mi diceva, ah, la cicoria. Sì, la cicoria, che buonissimo. Tra l'altro, sì, statevi a lamentare. Ecco. Quando c'era lui, quando c'era la guerra. Bella cicoria e via. Ma guarda, io pezzetto. Voglio sentire, ecco, bravissima, un bel pezzettino. Siamo sicuri? O questo? Dai, sì. Ecco, spezziamo un po' la monotonia degli anni 60. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't hate, but let me find you, God, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words. Ma neanche Michael Jackson, neanche Michael Jackson ha mai fatto un plagio del genere ad Albano, ragazzi. Questa a me ricordava un'altra canzone. Teardrops. Basta. Amore, fai preso, io non resisto. È la sera tornella. Stasera, non abbiamo bevuto niente. È quello che ci frega. Siamo arrivati alla fittonata, ragazzi. Perché d'altronde abbiamo fatto sentire un pezzo dei Bee Gees live a Las Vegas, Words. Non ci poteva Words. Che essere questa. E adesso si parla d'inglese, ragazzi. Nel 2016 sono state registrate le seguenti, i seguenti forestierismi, perché il neologismo straniero si chiama preso dall'estero, dai paesi stranieri, si chiama forestierismo. Startupper. Shutdown, Trojan, sei proprio brutto figlio di Trojan. Sfanalare, eufemizzare, non mi sembra mica tanto inglese, l'eufemismo semmai è un'origine greca, il copia e incollare. Il mio preferito è startupper. Mamma. Cioè chi ha la responsabilità della gestione di un'impresa in fase di startup, cioè di... neanche di avvio, ho appena fatto un business plan, il piano ovviamente, marketing e di soldini, ecco che siamo in mano una startup. Vi piacciono? Insomma, Ah, diciamo c'è di peggio. Cioè, com'è? Ci piace questo bicchiere mezzo pieno. Positivi qua. Va bene, ecco. su. Esatto, questi poi sono startup. Per no, ma copia incollare è generalmente un termine che cioè è un neanche un derivato diretto dell'inglese, perché sarebbe copy paste in inglese. Sì. E anche sfanalare in realtà non è un termine inglese, perché utilizzare ripetutamente gli abbaglianti dell'automobile per segnalare. Probabilmente è nato l'episodio nella lingua inglese e poi di conseguenza ce lo siamo rifatti nostro, perché non eravamo in grado di ripeterlo decentemente, esatto. Chissà. Comunque copia incollare, eufemizzare e attenuare l'asprezza di un'espressione. No, non mi piacciono questi. Vabbè, copia incollare ci siamo abituati ormai, penso sia una cosa abbastanza... Io non vedo l'ora che qualcuno dica control C, control V. Controlixare. Quando proprio oltrepasseremo le barriere delle lingue straniere, parleremo a comandi. Ma lo sai che stamattina ho battuto due volte sulla pagina del libro. Facevo tipo libro telefono e ho provato ad accendere la pagina del libro. Al lavoro usi la LIM, magari sei finita proprio. Ma a volte cerco di allargare le paginate del libro. Questo per dirvi che comunque si chiaramente parla di i momenti digitali, di tipo dopo che tre ore che non levi gli occhi dallo scritto, sì, vabbè, cervello è andato. Pensa un po' cosa succede ai poveri bambini. I poveri bambini non hanno minimamente cognizione, probabilmente non hanno il rapporto con la carta. No, certo. Quasi nulla. Basta che vedete questo soggetto che sta parlando ora. Eccolo. Ma tu sì, non sì. Sei un bambino, Granenko. Sono un bambino cresciuto, potremmo dire, via. Quanti anni hai? Dillo in diretta. Non si può dire. Puoi dire quanti anni hai, ma non la data di nascita, né tantomeno il codice fiscale. Se dico la metà, dicono tutte le altre due cose, scusa. No, il codice fiscale no, l'anno di nascita no, sì, non effettivamente. Nessuna età, però potrei dire che compresa fra i 10 e 40 anni. No, facciamo una media nei 24. Mandate un messaggio o un'email a Radio Wombat. Posta Wombat chiocciola in Siberia. E se beccherete precisamente la metà, avrete una birra gratis e un posto in cui vi sarà notato. Bene, ecco. Avete capito? Abbelli. Abbiamo il Totto Granenco, ragazzi. Indovina l'età. Allora, fra uno, due, tre, via. Parte, parte, su. Mandate queste mail. Siamo al numero sovraimpressione. Abbiamo un ospite friccicarello stasera, eh? È abbastanza, abbastanza. Friccicarello. Dopo aver fatto la festa, diciamo, nel bar sotto casa mia stamani, diciamo che non sono nelle condizioni. Esatto. Però è stata una cosa abbastanza avventurosa. Sono appena entrato, c'era il tipo che aveva partorito quasi due figlioli perché la sua donna aveva dei problemi, potremmo dire. Cioè, le due bocce di Jägermeister stavano a far dire cose a caso, scusate. Tu hai bevuto lo Jägermeister per una festa da stamattina poi? No, vabbè. Diciamo che non era stamani mattina, era l'ora di pranzo. Quindi, però un'ora quasi legale milanese era mattina. Ok, quasi. Hai detto bene milanese perché a Milano l'aperitivo non si fa solo la sera, ma si fa anche prima di pranzo. Eh sì. La Milano da bere, uè, figa. Uè, Granecco! Uè, figa. Bene, bene, vi posso fare un piccolo cazziatone? Dal punto di vista di scrittura. Prego. Allora, è vero, tutte queste parole qui fanno abbastanza schifo. Anche il benchmark, il device, il concept. Però sono parole che in alcuni lavori, mestieri, entrano un pochettino. Certo. No, ma a me fa schifo in generale il significato. Però è chiaro che poi non c'è altra soluzione, lo capisco. No, più che altro è brutta proprio l'italianizzare, quindi dare un contesto. No, sarebbe inascoltabile, anzi peggio, sì, sicuramente. Ecco. Visto che è inascoltabile, è anche illeggibile delle volte. Per esempio, quando questi termini device, cose del genere, vengono scritti in un testo utilizzando il corsivo, diciamo, perché appunto il neologismo, comunque il foresterismo che entra nella lingua, è un po' un'abitudine editoriale vecchiotta, perché era una cosa che succedeva fino agli anni 80. No, anzi, io ho dei libri editi negli anni 90 che ancora hanno questa cosa. E nei testi, soprattutto legati al mondo del web, questa cosa persiste. È bello quindi vedere che ci sono dei codici editoriali che persistono e che continuano ad esserci anche nella scrittura del web, di un sito web, di un sito internet, tutto quello che volete, un forum. Però potremmo anche evitare di evidenziare questi termini, perché leggevo un articolo, no? Device viene scritto in corsivo per evidenziare il suo essere termine foresto. Computer no. Perché? Perché computer è entrato nella nostra lingua da almeno da 25 anni. Forse anche di più. Ma in realtà penso non sia soltanto il tempo che ne determina il corsivo. Per esempio, smartphone non lo vedi in corsivo. Sì. Quindi c'è proprio un discorso probabilmente di accesso alla parola. Sono magari parole un po' più settoriali, più elitarie, per cui... Sì, però se appiccica... Secondo me smartphone, ora come ora, è un termine che viene così utilizzato, ma in una maniera incredibile, sì, che alla fine il computer è stato spostato direttamente nel cestino. Non so se mi avete capito. Sì, certo. Si usa così tanto che diventa poi di uso quotidiano. Esatto. Mi ricordo qualche giorno fa, stavo miracolosamente vedere la TV, il TG2, stavo a mettere questa notizia che tipo... 10 italiani su 12, un'età compresa fra i 13 e i 23 anni, utilizzano lo stesso smartphone, se ha internet naturalmente, tipo dalle 7 alle 10 ore al giorno. Sì, ecco. Perché la settimana scorsa è stata la settimana della critica all'abuso digitale da parte degli infanti / adolescenti. Sì. I cosiddetti nativi, che in realtà sì. Bisognerebbe essere nativi di altro, perlomeno fare una virtù di questo essere nativi. No? Se non diamo il buon esempio, cari miei. Esatto, seguite il mio esempio, invece di stare tutto il tempo dietro uno smartphone. Andate a bere le bocce di Jäger. Esatto, invece di stare tutto il tempo dietro a un PC, uno smartphone, eccetera, andate al bar, vicino o sotto casa, no? Esatto. È andato a supportarlo, perché ogni bar ha bisogno del loro supporter. Va bene anche che sia occasionale, due giorni a settimana. Occasionale, però ci sono, due giorni a settimana. Però ci sono anche quelli fissi da 7 giorni su 7, che appena apre i bar e va lì, inizia subito con il caffè corretto. Granenco si chiama alcolismo alle e non è 3 di notte, se il bar naturalmente resta aperto alle 3 di notte, si va a finire con la grappa proprio fatta di casa. Si chiama questa sta diventando Radio Cattiva Maestra, io esatto. Ve lo dico. Beh, d'altronde l'Accademia della Brusca con un nome del genere non funziona. Certo, ce lo dovevamo aspettare. Pezzettino, bene, vogliamo ascoltare sì, un pezzettino, poi vi dico di... 4 orrori terribili, bruttissimi, schifosi. Posso andare sulla parola? Io rimango ferma alla parola. Rimaniamo fermi alla parola, soprattutto perché questa non è entrata, questo nome non è entrato tra i neologismi. Perché era troppo bello. Buonasera. Chiedo scusa, ha fatto male? Buonasera, buonasera. Oh. Buonasera. Ecco. Buonasera. Volevo dire al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stiamo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo. Ti chiedi il come mai, ti chiedi quasi quasi. Dov'è la risposta? La risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata, è sbagliata. Buonasera. Vorrei chiedere. Oh, vediamo perché io non è che mi fido molto di questo santo. Vorrei chiedere a quello, sei pronto? Lei viene qui come profeta, come guru o come nostro salvatore? Col treno da Poggio. Cosa è una domanda tua al nostro profeta? Metterlo alla prova? Ti spiace, ti senti? Buonasera. C'è una domanda? Vorrei chiedere se mi può spiegare, per favore, quel meraviglioso distico di Alfano di Salerno che dice «Mundus erat mundus, mundus cum munda creares». La domanda è mal posta. Forse te volevi chiedere, maestro, che ore sono? È questo? È vero. Come è vero? Mi ha letto nel pensiero. Maestro, che ore sono? Le 10:30, alta telefonata. Grazie, Franco. Prego. Adesso ci penso io. Mi hai dato la luce. Ciao, maestro New Age. Buonasera. Mi sa un po' New Age. Ah, quindi era maestro New Age. New Age. Ovviamente, siccome la puntata è dedicata a Corrado Guzzanti, ce n'è un'altra da farvi vedere dopo, ovviamente, magari anche in chiusura, visto che si parlava di nativi digitali. Come erano visti un pochettino i ragazzi della nostra età, forse anche... No, non me lo dire, davvero, Lorenzone? Lorenzone, davvero? Lorenzone, ragazzi. Sì, siccome, vabbè. Dai, nelle due puntate scorse siamo stati particolarmente... Oddio, cado. Siamo stati particolarmente pedanti. Questa settimana abbiamo deciso di fare una puntata un pochettino per l'acqua di rose. Più fritz. Spritz. Eccolo, grande. Sempre. L'ho scritto sempre no. Fritz, sempre sul pezzo. No, devi andare. Aspetta, vai. Scusa, sono io che ti ho levato. Scusate, ma è tutta un'improvvisazione. Quando gli spritz girano in sala è sempre un problema. Ma non è vero, in realtà noi non stiamo bevendo. Quella che tu vedi è acqua santa. Se era acqua santa, a quest'ora mi ero già bello bruciato. Ragazzo dannato. Sì, bene. Ragazzo dannato. Allora noi al Granenco dedichiamo una poesia. La poesia. Facciamo un bel tema, perché questo è uno di quelli che danno sentito, sono arrivate le voci, eccetera. L'Europa unita. Ma come mai se qui se l'Europa è unita, che vedi, è unita, hanno saccato e storto il remore. Sai unita! Ma lascia stare la con te, è unita! Non bisogna mai innervosirli la sera prima dell'esame. Se non ti va di fare il tema di attualità, facciamo letteratura. Facciamo il tema di letteratura, che quello esce pure perché c'è. Quello già ti ho detto, io ho detto, risolvo una prova sua. Reganati, basta, lo scrivo, Reganati, adesso c'è. Ho fatto il calcolo delle probabilità, tre anni fa è uscito, allora è uscito Pascoli, capito? Deve uscire così, quest'anno esce Manzoni. No, questi, e i Foscoli sono usciti? Sì. Ma che l'altro anno? Tutti e due sono usciti, insieme, sì. Ti siamo sparati tutti e due. La tombola, gli hanno dato. Lambo, è uscito Lambo di Foscolo, vabbè. Sì, facciamo. Manzoni comunque, ho capito tanto, Manzoni. Facciamo sarebbe... Manzoni che ci scalda. C'è stato che... Rodriguez di Cosi, praticamente bravi, nominato, c'è stata peste bubonica di e lo riporto tutto a Leopardi, capito? I Sepolcri Sposi li riporto facilmente, li riporto a Leopardi, che è morto di gobba, e c'è commozione, come latino, pure latino, vede poco. Ma che è morto? Ma che stai dicendo? È morto di coppa. Ma insomma, andai a birare, ma li leggi, è morto. Noi abbiamo da vincere la sta coppa, infatti per quello dice geniale, che stava sempre a scrivere, gli veniva facile, stava così, stava sul tavolo, sempre a scrivere, diventò poeta. Ogni anno sarei partito a 180 gradi, ogni anno purtroppo la coppa se mangiò qualche gradi. Ah, se vedo, infatti le ultime cose si è scritte addosso, si è incantato, arrivato a 360, si è spezzato la pagina, è morto purtroppo. Stasera Leopardi è morto di gobbo. Vabbè. D'altronde chi se lo merita ottiene spazio. Tra l'altro so che Lorenzo ha fatto un figlio Lorenzo che si chiama Luco. Ma che dici? Sì, in aniene. Ah, ok. Quando lui va a fare i pani in sestella. Stiamo parlando della... No, niente di reale. Purtroppo niente di reale. E che dire, 20 povero e 34, il morto del gobba, che si è povero scritto Giacomo, addosso, forza no. Di piegarsi così tanto. Vabbè, ora della minestrina, dai. Ora della minestrina, riepiloghiamo un po' i nostri canalini, quindi il sito wombat.noblogs.org, ma si suppone, voi lo conosciate perché se ci state ascoltando... È una meta informazione. Esatto. Ecco. Se non siete in un bar che ascolta questa radio, siete completamente ubriachi e non capite niente, basta che andate direttamente sul sito di Radio Wombat e vedete tutta la podcast. E naturalmente potete ascoltare quando sarete sobri, se sarete sobri, o se no andrete domani mattina dal vostro barista di fiducia e chiederete dove sono stato ieri sera. Anche, e loro anche, mi diranno anche. Eri in trasmissione a Radio Wombat a un certo punto. Poi non esatto, so. Esatto, a Radio Wombat alla fine si trova in un bicchiere naturalmente, però quando si trova in un drink, quando viene a consumarsi il ghiaccio, quando si scioglie, dici il drink è finito, quindi è finito. Andate in pace. Esatto, è finita anche la trasmissione. Io mi sono. Portano una frusta e un bastone. Io mi sono guardata alla finestra, i capelli come quello. No, grande. Mi sono guardata alla finestra. Io voglio i chiodi puntati in testa. Sono io quello. Fa notare che qua in sala ci sta un tipo abbastanza rosco con bastone. È il regista. Tipo ci picchia ogni 3x2. È Mariano. Sì, è lui. Vuole solo la parola del Signore. Bene, bene, bene, vi dobbiamo lasciare perché Niki qui smania per allestire tutte le sue cosine. Il nostro Nautodate. Allora vi ricordiamo tra poco 8 Hertz di Nautodate. Si continua con il delirio stasera. Ma certo, dicevo, immagino, vedrai. Una puntata, non dico nulla, forse su Caorisma, non dico niente. Sbranzi. Io però no, volevo fare una cosa che non faccio da qualche settimana. Mm-hmm. Voglio il palinsesto sotto agli occhietti. Perché degli occhietti a mandorla, eccolo tanto carini qua. Io. E vi voglio ricordare un pochino il nostro palinsesto così, un po' son. 17 del venerdì, diretta di Mortal Wombat. Fighissimo, ragazzi, lo dovete ascoltare assolutamente. 21:30 Uru sull'Africa, anche questo è uno dei programmi più ascoltati è in tutto il mondo. Quello che ci ha rubato il trono. Esatto, è vero, lo avevamo noi il trono del maggior podcasting. Si può dire podcasting? No. Però sabato. Bravissimi quelli di Uru, davvero. A parte, io sto saltando tutte le repliche, chiaramente, parlo solo delle dirette. Sabato, Tonight Alive alle 22:30, domenica, diretta della Fuga del Gatto alle 18. Per ritornare a lunedì, faccio il giro, passaggi a Nord-Ovest alle 13:30, che poi riascolterete chiaramente ogni giorno alle 13:30. 16:30 sempre lunedì Fuoco alle Polveri, 21 del lunedì La Revancia, per poi passare al martedì. Il martedì abbiamo alle 17 Music Vox Populi, che c'è e non c'è, talvolta sì, talvolta no, comunque voi vi sintonizzate e poi alle brutte se sentite c'è qualche altra replica comunque interessante. Alle 19 il rovescio della medaglia, attualmente in pausa ci dicono, ma potrebbe riprendere una versione differente sempre il martedì. Poi abbiamo mercoledì Coccoli al Silicio alle 11, sempre la diretta. Mi raccomando, alle... Coccoli non coccole, coccoli. Coccoli e non tutti coccole. Tutti capiscono coccole al silicio, invece sono i coccoli, piatto che fiorentino. Bello. Alle 19 Soul Time, sempre in diretta, alle 21 Slick Chick, che mi fa fatica a dirlo, però questa volta forse l'ho detto bene dopo tanti mesi. Quindi la nostra Bloody Marion sarà anche contenta. Oh. Allora salutiamo tutti gli amici della Super Radio Wombat. Vi aggiorniamo su una piccola serata. In realtà non è una serata della radio, ma noi ci saremo per sponsorizzarci, per tirare su qualche benefit ci dia un po' botta di vita, come si suol dire. Quindi ci troverete con un banchino. Perché appunto potrete acquistare un po' di cosine, ma soprattutto se ci finanziate questo giro potrete acquistarne di bellissime alla prossima serata del Wombat. Anche se in realtà niente arriverà probabilmente per sabato, ma noi ci saremo lo stesso con tanta simpatia e amore. Un euro un bacio dalle brusche. Lo diciamo anche dove, al CSA Next Emerson, via di Bellagio. Non mi hanno scritto il numero civico, però più o meno penso che si possa intuire comunque dov'è. E detto ciò, venite a trovarci se potete, se non ho pace ascoltateci, noi siamo sempre nel solito fantastico sito e vi facciamo sentire il pezzone che abbiamo in programma da settimane, chiaro, però... e ci riaggiorniamo giovedì prossimo. Sì, però ricordatevi una cosa molto importante della vita, cioè della mia vita, vi sto mettendo in esposizione. Forse non lo voglio sapere. Supportate i bar sempre, ragazzi. È un'importanza della vita. Anche se il giorno dopo non vi ricordate, almeno sapete che il giorno prima avete supportato Nautodate un bar. È grande supporteremo e supporteremo con questa coppia minima fonetico, lessicale, morfemica. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Supporta i bar. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai